La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 18 aprile 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Per i contatti 333-180-9494 per gli sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it per le vostre mail. Incredibile a dirsi, ma in questa puntata parleremo di astrologia. E lo faremo con Stefano Bagnasco del CICAP, ma soprattutto un fisico che si occupa di questi argomenti. Buongiorno Stefano. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Senti Stefano, all'inizio come al solito abbiamo le 100 parole iniziali per descrivere la trasmissione e quindi io in 100 parole ti vorrei chiedere: se tu potessi definire l'astrologia, come la definiresti? Vediamo, una buona definizione secondo me potrebbe essere che l'astrologia è una delle discipline più antiche che ci sono ancora in giro e abbiamo tantissime persone che ci credono e ci credono ancora, nonostante tutto non ha assolutamente alcun fondamento scientifico. Se andiamo a vedere veramente se si può credere alle previsioni astrologiche, la risposta è decisamente no. Quindi la possiamo considerare come qualcosa di archeologico o storico, ma non scientifico. Sì, comunque molto affascinante in realtà, perché è chiaro che un argomento così antico, così ricco di simbologie, così strettamente legato al modo ormai di pensare, di raffigurarci l'arte, il cielo e tutte queste cose, non è che si possa buttare via dall'oggi al domani. La cosa che non ha è capacità previsionale o capacità di prevedere il carattere delle persone, ecco. Benissimo Stefano, adesso mettiamo un pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi cominciamo con la trasmissione. Ok. Bentornati in studio. Oggi parliamo di astrologia. Ne parliamo a nostro modo, ovviamente. E quindi quest'oggi si comincia così. Maga Magella, Maga Magella, se ti va brutto. Simbolo della Vergine, Sole, che è un segno di terra, dominato da Mercurio, hanno un forte senso del lavoro, non si prefiggono grandi obiettivi, si preoccupano di ogni cosa, hanno quasi sempre paura del rischio, amano la natura. Insomma Stefano, ti è piaciuto questo pezzo che abbiamo messo all'inizio? Era meraviglioso, rendeva molto l'idea, devo dire. No, perché girando su YouTube, ma anche in realtà girando sui vari canali, si trova sempre qualcuno che ti vuole prevedere il futuro. E allora, visto che tu dicevi che all'inizio in realtà l'astrologia aveva un suo peso, aveva una sua storia, io volevo dirti che all'inizio in effetti c'è stato il logos, no? Astrologia, e poi c'è stato il nomen, quindi astronomia. Quando si è passati dal logos al nomen? E guarda, è stato un passaggio in realtà secondo me piuttosto graduale, nel senso che se uno va a vedere, quando parli, fai dibattiti con gli astrologi, periodicamente ti tirano fuori il fatto che i grandi del passato, Newton, Galileo, Keplero, facevano gli oroscopi, e quindi in realtà l'argomentazione non sta molto su, e poi si vede che a un certo punto, con l'avvento della scienza moderna, il modo moderno di fare scienza, del metodo sperimentale, l'astrologia perde via via di terreno. Peraltro ti interrompo un attimo, perché proprio questo è uno degli argomenti che stanno battendo molto su Galileo, cioè dicono molto, molto spesso Galileo faceva gli oroscopi, quindi gli oroscopi sono giusti. State santificando Galileo in quest'anno, che è l'anno internazionale dell'astronomia, perché se Galileo faceva gli oroscopi voi non credete agli oroscopi? Guarda, Galileo è proprio il punto di transizione dove quelli che si occupavano di scienza hanno smesso di occuparsi anche di astrologia, perlomeno a grandi linee. È uscito proprio di recente un libro di mio amico Andrea Albini che ha proprio studiato la posizione di Galileo rispetto all'astrologia. E la cosa che si vede è che se fino a Galileo praticamente tutti i grandi astronomi, Copernico, Tycho, Tycho Brahe, Keplero stesso, facevano oroscopi e probabilmente ci credevano anche se non siamo sicuri di quanto, naturalmente, non potendoglielo chiedere. Per esempio, però, a un certo punto probabilmente anche loro avevano i loro dubbi, perché Keplero diceva che l'astrologia è una ragazza che nutre la mamma povera, che sarebbe l'astronomia. Diciamo che si guadagnavano il pane facendo gli oroscopi. Si guadagnava molto di più facendo gli oroscopi che scoprendo come fece Galileo le lune di Giove, ecco. Galileo all'inizio della sua carriera fa gli oroscopi, ne fa diversi, ne sono rimasti anche ancora alcuni, e per esempio sono rimasti due molto famosi delle sue figlie. O un oroscopo che aveva fatto per se stesso, non è particolarmente bravo in realtà, perché gli oroscopi in cui aveva previsto il carattere delle due figlie, una molto pacata e molto serena, l'altra di un carattere piuttosto ruvido e spigoloso, erano azzeccati, ma per la figlia sbagliata. Ah, quindi al contrario. Al contrario. Nella seconda parte della sua vita si vede che lascia sempre di più l'astrologia, salvo per fare cassa di tanto in tanto. Si vede che, per esempio, nelle sue lettere si trova che lui, quando gli venivano chiesti degli oroscopi, non li faceva volentieri, o anzi molto spesso li subappaltava, diciamo così, a dei suoi amici meno importanti di lui, per non perdere tempo con questa cosa che però gli faceva far cassa. Un altro episodio divertente è quando, per ringraziarselo, fa un altro famoso oroscopo al Granduca di Toscana, Ferdinando I, okay. E annuncia ovviamente, come si faceva all'epoca, lunga vita e grande prosperità, se no che passano 40 giorni e Ferdinando I muore. Oddio. Non era particolarmente più bravo degli altri come astrologo. Da Galileo in poi si perde un po' questa importanza dell'astrologia. Per esempio, uno dei più importanti allievi di Galileo, Bonaventura Cavalieri, che è famoso, uno di Bologna tra l'altro, che è famoso come matematico, si lamenta che gli scienziati trascuravano le scienze per l'astrologia. Sentimi, ma quindi Galileo fondamentalmente è il punto di divisione fra l'astronomia e l'astrologia, giusto? Ma sì, io non so quanto, cioè non è lui personalmente, lui è molto famoso proprio perché era è stato sia il fondatore del metodo sperimentale scientifico moderno, sia probabilmente l'ultimo dei grandi scienziati a fare oroscopi nella sua vita. E era quello appunto il momento in cui si cambiava, cominciava a comparire la scienza sperimentale moderna, e quindi l'astrologia lasciava un po' il tempo che trovava. Senti, dalla storia però a questo punto dobbiamo passare alla scienza. Siamo arrivati ormai nel 2000 e sappiamo alcune cosucce. Se tu le potessi classificare, le cose che sappiamo oggi, che ci dicono che gli oroscopi non funzionano, giusto per elencarle e poi dopo le andiamo a snocciolare una per una, quali sono, giusto per dare il nome di queste cose? Dunque, secondo me abbiamo, tanto per cominciare, secondo me gli indizi, ci sono indizi e prove a sfavore dell'astrologia. Gli indizi sono quelli probabilmente più famosi, e sono per esempio il fatto che la posizione delle stelle effettiva nel cielo è un po' diversa da quella, anzi molto diversa da quella usata dagli astrologi, che è una posizione convenzionale. Le costellazioni astrologiche non sono le stesse, diciamo così, delle costellazioni astronomiche. Poi magari vediamo nel dettaglio cosa vuol dire questo. Poi c'è un'altra obiezione che si può fare, cioè che non si capisce nella scienza moderna come possa funzionare una cosa del genere. Cioè non c'è nessun meccanismo fisico, chimico, biologico, immaginiamo quello che vogliamo, che possa far sì che la posizione delle stelle nel cielo in qualche modo influenzi o rispecchi, dia delle informazioni sul carattere delle persone o su cosa succede sulla Terra. E questa mi sembra la cosa più importante, proprio il fatto che le stelle sono così distanti, i pianeti sono così distanti, che mi sembra quasi ridicolo il fatto che qualcuno pensi che ancora possono influenzare il nostro comportamento. E questo è verissimo, però c'è un però. Nel senso che è vero che non sappiamo come funziona, però attenzione, noi non è che possiamo andare a dire ah, non sappiamo come funziona, quindi non funziona. Questo qui è soltanto un indizio che ci dice ma è un po' strano che ci possa essere un fenomeno di questo genere, e quindi ci incuriosisce e ci fa fare degli esperimenti, perché a questo punto queste cose che ho detto sono soltanto, come dicevo, indizi che ci dicono che l'astrologia non funziona. Quello che ci dice che l'astrologia non funziona in realtà sono delle prove, e cioè sono gli esperimenti che sono stati fatti nel corso degli anni per andare a vedere se gli astrologi sapevano effettivamente fare il loro mestiere, cioè prevedere il carattere delle persone a partire dalla posizione degli astri. E questa è la cosa più divertente. Questa è la cosa più divertente ed è anche l'unica che ci mette veramente in grado di affermare con qualche grado di sicurezza che l'astrologia non funziona, perché tutti gli altri sono obiezioni, non sono vere prove. Per esempio, la più famosa di tutte è quella che fa infuriare gli astrologi quando uno la dice, Ophiuco. Ophiuco è una costellazione, La tredicesima costellazione zodiacale, davanti al quale il Sole passa, adesso i giorni precisi non me lo ricordo, ma sono e fra lo Scorpione e il Sagittario. Sì, prima metà di dicembre approssimativamente. Quindi qualunque persona nata in quel periodo lì non dovrebbe essere il segno del Sagittario, ma dovrebbe essere il segno di Ophiuco. In realtà gli astrologi ci dicono, però è sbagliato questo. Quello che conta non sono le costellazioni, che sono dei raggruppamenti casuali di stelle nel cielo, ma sono i segni zodiacali. I segni zodiacali, che sono queste 12 suddivisioni tutte uguali dello zodiaco, che guarda caso sono proprio quelle stabilite una volta per tutte da Tolomeo, un astronomo egiziano, nel secondo secolo dopo Cristo, qualcosa del genere. I segni zodiacali non corrispondono più alle costellazioni. Se un astrologo dice oggi il Sole entra nel segno del Sagittario, uno va a vedere nel cielo cosa c'è dietro il Sole. In realtà quello che vede non è il Sagittario, ma è lo Scorpione, perché il Sole è indietro. Per il fenomeno della precessione. La precessione degli equinozi. Proprio per il fatto che queste date sono state stabilite quasi 2000 anni fa. Un fenomeno astronomico che ha fatto in modo che le costellazioni si spostino lentamente rispetto alla posizione che hanno in un determinato momento. Gli astrologi appunto hanno una risposta per questo, dicono non sono le costellazioni che contano, sono i segni, che sono quelli stabiliti da Tolomeo. Ora, a me non convince tanto come obiezione, però bisogna anche dire, io sono un fisico, non sono un astrologo, sapranno loro fare il loro mestiere, capisci? Non posso criticare una cosa di questo genere, non sta tanto in piedi, secondo me, però è proprio per questo che bisogna fare degli esperimenti, perché per usare veramente il metodo scientifico e non semplicemente basarsi su delle supposizioni a cui gli astrologi possono dare un'altra risposta che ha lo stesso valore. Quindi diciamo che se potessimo catalogare queste cose, la prima di tutte è che le costellazioni invece di essere 12 sono 13 e in mezzo c'è l'Ophiuco. Poi il Sole non si trova nella stessa posizione, qui ci dicono che si trova, ma si trova in una posizione spostata leggermente più indietro, e questi sono due punti a favore di chi non crede agli oroscopi, diciamo. Sì, per i quali appunto però gli astrologi hanno una risposta, che uno può accettare o no, però hanno una risposta. D'altronde uno si potrebbe anche chiedere, ma perché tra tutte le possibili costellazioni, tutti i possibili raggruppamenti delle stelle zodiacali, proprio questa bisogna scegliere? Ci sono diverse tradizioni che hanno diversi raggruppamenti delle stelle zodiacali, per esempio i cinesi invece di 12 costellazioni zodiacali, a seconda delle tradizioni, vedono addirittura 24 o 28 diverse costellazioni zodiacali. Adesso non ricordo più, ci sono tanti esempi di queste, mi pare di ricordare che i Toltechi ne vedono 18 costellazioni, ne vedessero 18 costellazioni diverse. Per cui vedi, la scelta di come raggruppare le stelle non dipende certo da come sono messe le stelle nel cielo, che sono a caso. Ogni civiltà ci vede una cosa diversa. Allora perché per fare il lavoro astrologico uno dovrebbe proprio usare quelle che attraverso la tradizione greco-romana ci arrivano fondamentalmente dagli assiro-babilonesi? È una scelta arbitraria. E peraltro effettivamente, se io facessi l'astronauta e andassi a guardare veramente come sono disposte le stelle, quante dimensioni in realtà vedrei? Ah beh, chiaramente anche questa qui è un'altra obiezione che si può fare, cioè i raggruppamenti di stelle dipendono da dove ti trovi. Se io sto sulla Terra le vedo in un certo modo, ma se già prendo una mi sposto in un altro punto del sistema solare, beh, di poco cambieranno, però cambiano, perché le stelle non sono disposte su, come si immaginavano gli antichi, su una sfera con la Terra al centro che la circonda, ma sono a distanze differenti, quindi se mi sposto vedrò le stesse stelle in posizioni diverse. Allora Stefano, adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi parliamo delle prove effettive che ci dicono che l'astrologia, tra virgolette, non funziona. Sarà divertente. Strange taste is soft velvet and hard stone. Capture if you can their fruit and looking glass on the other side. It's always better looking through someone other's eyes. Glimpsing in another room, I find you shining. So come closer into the cooler shade and see what I see. Tangle your mind simply. Maybe it's not so bad how you perceive all those savory tastes I need.